Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e buongiorno a te Deborah. Buona giornata Nicoletta e buona giornata a tutti i nostri amici. Anche oggi il nostro pensiero è per le vittime dell'incidente ferroviario in Puglia, per chi tra quelle rotaie ha perso la vita, è rimasto ferito e per le loro famiglie che stanno vivendo questo immenso dolore, e al loro fianco i volontari e anche una task force di psicologi dell'Ordine degli Psicologi della Puglia. In linea con noi abbiamo il presidente Antonio Di Gioia. Buongiorno dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottor Di Gioia, anche voi vi siete attivati senza esitazione, vi siete messi a fianco dei familiari delle vittime, dei feriti, per offrire il vostro sostegno sin dai primi istanti della tragedia, perché come la psicologia dell'emergenza insegna, la tempestività dell'intervento è essenziale per l'elaborazione a livello psicologico dell'evento traumatico. Sì, eventi come disastri, incidenti o calamità naturali sono caratterizzati da un'eccessiva imprevedibilità. Chi vive questa esperienza ha una reazione di stress molto intensa, accompagnata da senso di pericolo, paura di morire, certo, e impotenza. Diciamo che nelle prime fasi successive all'evento traumatico, diciamo orientativamente le prime 48 ore, lo stato psicologico degli individui coinvolti è tra la dissociazione, la confusione, l'incredulità. Cioè anche la nostra mente è presa da uno tsunami. Certo, quindi. Disorganizzazione mentale. In questa fase diciamo che l'intervento psicologico mira alla stabilizzazione, cioè ha come obiettivo di riportare la persona all'equilibrio, a ridurre la dissociazione, ad attenuare le reazioni di stress, a fornire, certo, alle vittime un senso di sicurezza, di fiducia, quindi, e di protezione. Quindi, dottore, voi avete affrontato la paura, la rabbia, la disperazione che hanno caratterizzato i primi momenti subito dopo la tragedia, ma poi avete accompagnato i familiari in un momento ancora più drammatico. Ad alcuni di loro è toccato il compito più duro, riconoscere i propri cari trasfigurati delle lamiere, altri invece hanno potuto riabbracciare i propri cari in ospedale. Ma dal punto di vista psicologico, tutti immaginiamo che questa sia una situazione molto complessa e delicata, ma come l'avete affrontata? Che aiuto avete potuto dare? Intanto i colleghi che hanno dato la disponibilità sono colleghi ormai formati, esperti, appartenenti a delle associazioni di psicologia dell'emergenza, che hanno un compito che ben preciso. Ricordiamo, dottore, la parola, cioè, sì, è chiaro il significato, però è proprio una branca della psicologia che studia operativamente come affrontare situazioni di emergenza, che possono essere per un problema come una tragedia di questo tipo, oppure dopo il terremoto, atti terroristici. Sì, la psicologia dell'emergenza è un settore specialistico della psicologia che interviene in questo tipo di circostanze e che ha sperimentato e validato diversi protocolli nel tempo di intervento che attualmente vengono impiegati, certo, sia dalla Protezione Civile, dalla Polizia di Stato, da tutti gli operatori coinvolti all'interno delle tragedie, delle calamità naturali, dei disastri, degli incidenti. Quindi l'intervento è stato proprio da parte di psicologi preparati per specializzati a gestire questo tipo di emergenza. Assolutamente sì, perché è necessario anche seguire delle fasi in questo percorso, per cui ieri per esempio siamo stati all'Istituto di Medicina Legale, come diceva lei poc'anzi, e ci siamo divisi in gruppi di 2-3 che accompagnavano le famiglie prima nel riconoscimento degli oggetti personali e poi nell'identificazione del cadavere, delle salme. Allora, dottore, il vostro lavoro naturalmente continua anche a fianco dei feriti che sono ricoverati in ospedale, che sono delle persone proprio dei sopravvissuti che hanno probabilmente visto la morte in faccia e che sanno bene il rischio che hanno corso. Sono salvi, ma anche qui psicologicamente devastati. Che cosa le raccontano? C'è una testimonianza che lei ci può raccontare? Guardi, una testimonianza in particolare no, però si assiste a delle scene di grossa fragilità emotiva che hanno bisogno di un grosso contenimento da un punto di vista emotivo, di un supporto umano oltre che professionale, perché insieme agli psicologi c'erano anche gli infermieri, medici, operatori del 118, della Croce Rossa, un team plurispecialistico che era pronto ad intervenire nel caso in cui ci fossero delle esigenze particolari specifiche per quel nucleo familiare, ad esempio. Dottore, voi date anche delle indicazioni ai familiari che si recheranno a trovare i feriti in ospedale, perché bisogna fare rete? Sì, stiamo facendo un'operazione di grossa rete, proprio in questo momento stiamo coordinando delle operazioni per i prossimi giorni con la Protezione Civile. Abbiamo fornito già ieri numeri telefonici e sedi di servizi territoriali specialistici pronti a recepire eventuali richieste di supporto, di sostegno, e con la Protezione Civile stiamo attivando per fornire dei numeri telefonici per poter contattare degli psicologi esperti in psicologia dell'emergenza e poter fornire anche nei giorni successivi un supporto psicologico, un accompagnamento per quello che è questo processo così delicato e anche molto carico di sofferenza. Immagino anche da parte vostra che dovete sostenere e quindi dovete aiutare le persone a riprendere un po' in mano la loro vita, accompagnarli in questo cammino che sarà assolutamente lungo, ma anche lo psicologo, no, ha bisogno di sostegno per affrontare queste situazioni così delicate. Dottore. Sì, anche gli psicologi sono delle persone e soffrono e insieme alle persone, e non solo, anche gli operatori che sono stati coinvolti nelle procedure, nel soccorso, hanno bisogno poi successivamente, certo, di un supporto da parte nostra, una rielaborazione di quanto accaduto. Dottor Di Gioia, la ringraziamo per essere state con noi e vi siamo tutti vicini. Grazie. Grazie a voi e un saluto a tutti. Grazie ancora. Grazie. Allora, intanto, dopo questa significativa testimonianza, andrei per un attimo, Nicoletta, ah, certo, mi rendo conto che lo stacco è un po' complicato, però dobbiamo farlo. Abbiamo solo, anche per gli amici che ci seguono da casa, appunto, che sono abituati a quest'ora della nostra trasmissione ad avere un aggiornamento sull'andamento dei mercati finanziari, almeno raccontiamo questa buona notizia oggi, che abbiamo un quadro largamente positivo con Milano che sta guadagnando 1,5 punti. Tutti in volata i titoli del settore bancario, molte banche stanno continuando ad effettuare operazioni di cessione dei loro crediti inesigibili e quindi questa riorganizzazione che era largamente attesa appunto dal mercato viene dallo stesso mercato premiata. I titoli guadagnano tutti fra i 4, 5, 6 punti percentuali, quindi buon andamento per il settore bancario. L'appuntamento centrale della giornata è con la Bank of England, che oggi presumibilmente taglia i tassi di interesse. Questa solo qualche breve anticipazione dei temi che invece approfondiremo a partire dalle 11:20 con il nostro spazio del giovedì. Torneremo sui banchi di scuola con Investire Informati. Oggi c'è Monica De di Pioneer e quindi affronteremo anche tanti altri argomenti, a cominciare dal fatto che i rendimenti dei titoli di Stato sono sempre più in scivolata. Ieri per la prima volta in asta è finito in negativo anche il titolo di Stato tedesco, il Bund. Nicoletta. Allora, nella seconda parte quindi della trasmissione pronti al nostro appuntamento, ci metteremo come sempre sui banchi della Scuola di Risparmio, mentre nella prima parte della trasmissione ripasseremo le regole di una buona idratazione. Il caldo si fa sentire, anche se devo dirti che con questa perturbazione che è arrivata la temperatura, almeno qua al nord... ieri sera sembrava inverno ad un Guarda, certo punto. Guarda, io sembravo proprio Fantozzi, perché appena sono uscita dalla redazione si è scatenato l'inferno. Sei... Per cui sono arrivata a casa, Fradicia, che ti devo dire, Fradi, cioè quando uno dice dalla testa ai piedi, ecco, di più. E quindi comunque devo dire che abbiamo dormito al fresco, esatto, sì, per fortuna, però da domenica ritorna anche il solleone. Ritorna il solleone, e allora l'invito è per le regole dell'abbronzatura, siamo a posto, le abbiamo trattate, sì, proprio la scorsa settimana quando eravamo a Montepulciano, mm-hmm, ricordi? Una bella ripassata, mentre ripasseremo le regole di una buona idratazione con un'attenzione particolare per i nostri amici che praticano sport, sono sportivi amatoriali, non rinunciano all'allenamento, naturalmente anche se le temperature salgono, quindi tanti consigli utili, molti di buon senso, ma soprattutto cercheremo di confutare alcuni luoghi comuni che ci sono ancora, nonostante sia semplice come bere un bicchiere d'acqua, idratarsi, però pesa ancora. Adesso noi andiamo subito a sentire che cosa sta succedendo sulle strade, sulle autostrade, poi ritorniamo subito dopo insieme. Intanto vi ricordo il nostro numero verde 800 24 0024. A tra poco. Cuore e denari. Give me five. All right. Accaldati ma idratati. Secondo gli esperti bastano 8 bicchieri. Questa è la raccomandazione per assicurare, no, il giusto. Ma al giorno tutti insieme? Adesso faccio partire le domandone. Ma al giorno tutti insieme? Poi a che temperatura? A che ora? Liscia, gasata? A che ora? E con limone o aceto senza il naturale? 800 24 00 24. Voi ce la fate? Chiamateci, scriveteci e diteci anche che tipo di acqua bevete. Liscio, gasato, del rubinetto, quella del sindaco, come la chiamo io, esatto, a centimetro zero. A centimetro zero. Una cosa è certa, dopo l'ossigeno l'acqua è la sostanza più importante per la salute umana, perché è indispensabile per lo svolgimento di tutti i processi fisiologici e le reazioni biochimiche che avvengono nel nostro corpo, perché non vi è alcun sistema all'interno dell'organismo che non dipenda direttamente dall'acqua. Quindi questo ci fa capire perché quanto sia importante mantenere un giusto equilibrio del nostro bilancio idrico, il rapporto tra le entrate e le uscite. Vedi che anch'io parlo di bilancio, vedi Deborah, mi sono attaccata. Mi sono D'altronde chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Allora, raccontateci bene se bevete solo quando avete sete o bevete indipendentemente dallo stimolo che avvertite, e diteci anche in media quanta acqua bevete nel corso di una giornata. Provate un po' a pensarci, potete quantificare i bicchieri o se preferite andate a bottiglie e bottigliette. Aggiungete magari anche un altro dettaglio. Cerchiamo di capire se in quale momento della giornata beviamo di più, al mattino, dopo pranzo, ai pasti, verso sera. E poi, come anticipato, mi raccomando, se siete sportivi e vi allenate con regolarità e soprattutto volete sapere quanto bere prima, durante e dopo l'allenamento, restate, perché i nostri esperti vi daranno anche una formula esatta per reintegrare i liquidi dopo l'allenamento. Intanto iniziamo, ho parlato di esperti, perché il primo è il dottor Andrea Poli, direttore scientifico di Nutrition Foundation of Italy. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E poi ci raggiungerà anche il professor Michelangelo Giampietro per i nostri amici sportivi. Dottor Poli, se il nostro organismo è una macchina, l'acqua per certi versi è la sua benzina, anche se è una benzina molto particolare perché non inquina, anzi pulisce, lubrifica, nutre, trasporta. Ci aiuti un po' a capire che cosa è capace di fare quel semplice bicchiere d'acqua? Beh, quello che potremmo dire è che l'acqua è, in tutta evidenza, il liquido della nostra vita. Siamo fatti, ormai ce lo siamo sentiti ripetere più volte, per il 75% di acqua quando nasciamo, poi la percentuale scende lievemente, arriviamo al 60% quando siamo adulti. Devo dire che le donne sono lievemente meno fatte di acqua di noi uomini, perché hanno mediamente un po' più di tessuto adiposo, anche se non, spesso non fa piacere sentirselo ricordare. Stai attento a quello che dice. Mi sembra che stia già scivolando su una bucciola di banana. Perché le donne sono di sostanza. Ecco. E questo, vero? Dottore, che voleva dire? La donna di sostanza. Il senso era questo. No, però quindi, al di là del fatto quindi che siamo in larga parte fatti di acqua, è chiaro che la maggior parte delle funzioni del nostro organismo non potrebbero aver luogo se non ci fosse l'acqua. L'acqua discioglie le sostanze nutritizie nel sangue, le porta nell'organismo. Non è un caso infatti che le sostanze che facciamo più fatica a trasportare siano i grassi, proprio perché si sciolgono non bene nell'acqua, e quindi la natura ha dovuto inventare lipoproteine per trasportare i trigliceridi e il colesterolo. L'eliminazione delle scorie ovviamente dipende dall'acqua, ma anche il controllo della temperatura, che dipende dalla sudorazione, certo, quindi in larga parte da quello. Tutte le reazioni chimiche del nostro metabolismo hanno luogo in medi acquosi. Senza acqua veramente la vita è assolutamente nemmeno ipotizzabile. Per questo capiamo bene quanto sia essenziale mantenere un giusto equilibrio del nostro bilancio idrico, proprio per conservare un buono stato di salute nel breve, nel medio e nel lungo termine, a tutte le età. Dottor Poli, dicevamo 8 bicchieri al giorno, questo di solito raccomandano gli esperti, anche se ci sono un po' delle voci fuori dal coro che sottolineano che non ci sono studi a conforto di questo numero, di questa quantità esatta. È vero? Ma i dati disponibili in realtà sono piuttosto ampi. Lei ricordava gli 8 bicchieri, che corrispondono, lo vedremo penso dopo, alle raccomandazioni dell'ESSA, ma per esempio l'Institute of Medicine americano dice 3 litri nella donna e 3 litri e 700 nell'uomo, tanto per dirle, sì. Quindi il nostro è già un criterio di riferimento. Qualcuno dice che non ci sono delle evidenze strettissime a favore di questo limite. probabilmente quello che potremmo dire è che questi sono i valori ottimali. Certo. Se noi scendiamo un po' al di sotto non succede in acuto sostanzialmente nulla, soprattutto nelle fasi centrali della vita. Potrebbe non essere vero nelle fasi più delicate come quella dell'infanzia e dell'età più avanzata. Per cui di fatto abbiamo fatto delle modellizzazioni che partono da quando siamo francamente disidratati, condizione che vogliamo evitare, certo, e abbiamo calcolato gli ottimali. Quindi questi sono valori ottimali. Sicuramente non succede nulla di particolare se ne beviamo un bicchiere d'acqua in più. Questo sia anche un criterio di riferimento che ha portato, ecco, a scegliere. Quindi meglio un in più che un in meno? Assolutamente. Ecco, assolutamente ha citato sì. I bambini e poi aggiungeremo anche gli anziani, perché solitamente il nostro organismo ci avverte, non solitamente, certo, il nostro organismo ci avverte quando dobbiamo fare rifornimento con lo stimolo della sete. Però questo meccanismo in alcune condizioni può incepparsi e soprattutto può alterarsi nelle persone anziane, perché gli anziani tendono a non percepire lo stimolo della sete. E la stessa cosa avviene anche per i bambini, e quindi è opportuno per queste due categorie di persone fare un po' di attenzione e magari anticipare lo stimolo della sete, non aspettare di avere sete ma idratarsi. Sì, ma questo in realtà questo è particolarmente vero, come suggeriva lei, per bambini e per gli anziani, ma probabilmente dovrebbe essere il criterio di riferimento un po' per tutti. La sete è il meccanismo che l'evoluzione ci ha donato per renderci conto di quando siamo in carenza di liquidi, però in realtà comincia a entrare in funzione quando noi abbiamo già perso almeno l'1% della nostra massa corporea. Qualcuno dice l'1, l'1,5, c'è una certa variabilità come potete immaginare da persona a persona. E quindi quando c'è una condizione di disidratazione che è già sensibile, per cui in ogni caso apportare liquidi con regolarità anche nella fase centrale della vita è molto importante. Nelle fasi iniziali e nelle fasi dell'età più avanzata questo diventa determinante, perché come lei ricordava gli anziani hanno una minore sensibilità alla disidratazione. Nel nostro cervello ci sono delle cellule particolari che sentono la concentrazione dei sali. Quando noi ci disidratiamo il sangue tende a diventare un po' più concentrato, e è esattamente questo parametro che viene letto dai recettori cerebrali che poi danno il comando all'organismo attraverso lo stimolo della sete di bere. Il meccanismo però comincia a perdere qualche colpo, per cui comincia a scattare, a entrare in funzione quando la disidratazione non è più dell'1%, ma magari del 2-2,5%. Quindi sicuramente nell'età avanzata è importante bere con regolarità, anche se non si sente la sete, cosa non semplice, perché se ci pensate bere quando non si ha sete può non essere agevole, e questo è anche il motivo per cui magari abbiamo occasione di ritornarci poi. Il concetto della varietà è molto importante, varietà e di seguire le inclinazioni della persona. Se mi fa piacere bere una tisana, perché no? Se mi fa piacere bere un succo di frutta non troppo concentrato, perché no? Proprio per poter bypassare questo meccanismo che non segnala accuratamente lo stato di perdita di liquidi. Poi beviamo anche introducendo alimenti, la frutta e la verdura sono particolarmente, no, idratanti. Ne parleremo nel corso della seconda parte della trasmissione dopo il nostro GR. Intanto salutiamo il professor Michelangelo Giampietro, a cui affideremo tutti i nostri amici sportivi all'ascolto all'800 24 00 24. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Medico specialista in medicina dello sport e in scienza dell'alimentazione, pronto a posso raccontarci... dire che è stato a malapena nominato e già gli ascoltatori segnalano di conoscerlo benissimo e di seguire tutti i suoi suggerimenti. Allora vedi che abbiamo fatto centro. E allora, se siete sportivi, se vi allenate, se volete raccontarci anche come vi idratate, se vi preidratate, quindi se assumete liquidi prima e quanto prima dell'allenamento, che cosa bevete durante, e sapete esattamente la formula per reintegrare perfettamente i liquidi dopo l'allenamento, Deborah, tu la conosci? No, ma benissimo, è bene che io la prenda, perché forse te la darà. Esatto, adesso noi diamo invece la linea al GR, ritorniamo subito dopo insieme, tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a una Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza Telmo Piovani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Cuore e denari. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Sì, muoviamoci, muoviamoci a Cuore e denari. Siamo nella seconda parte della trasmissione. Tra poco preparatevi perché Deborah ci metterà tutti seduti. Anch'io un po' parlerò di acqua, di mari in tempesta, dei mercati finanziari. Ti è piaciuta questa? Mi piace. E abbiamo già qua la nostra esatto. Ospite della seconda parte della trasmissione. Che abbiamo già interrogato se si idrata a sufficienza. Allora, naturale minerale del rubinetto, temperatura ambiente più fredda, magari da bere a piccoli sorsi con l'aggiunta di erbe in forma di tisana. Io direi sciogliamo gli indugi, non aspettiamo di avere sete per bere, ma idratiamoci. Questo è stato il consiglio del nostro esperto, il dottor Andrea Poli, direttore scientifico di Nutrition Foundation of Italy, che è in linea con noi. Dottor Poli, questo è il messaggio da portarci a casa e soprattutto fate attenzione alle persone anziane che tendenzialmente non hanno mai sete ma devono bere. Perfetto. Allora, lei diceva anche di aggiungere un'altra parola che a me, a Deborah, piace in modo particolare, è varietà. Quindi diversifichiamo anche, no, nell'alimentazione, nelle bevande che assumiamo per dare al nostro organismo tutto quello che ha bisogno per idratarsi senza correre il rischio della monotonia che potrebbe in qualche modo allontanarci dall'obiettivo. L'angolo è di solito blocca il raggiungimento degli obiettivi quantitativi. E come accennava lei prima dello stop, circa un quarto dei liquidi in realtà li assumiamo già con i solidi, quindi questo è già un modo per variare. La frutta, la verdura, le zuppe e i minestroni sono sicuramente molto importanti. E poi c'è proprio la varietà dei liquidi. Recentemente è stato pubblicato uno studio molto ben condotto che ha valutato la capacità delle varie bevande di idratare ed è emersa una cosa tutto sommato non sorprendente: tutte le bevande idratano allo stesso modo secondo della quantità di acqua. Alcune però sembrano funzionare addirittura un pochino meglio, quindi torna al concetto della varietà. Curiosamente il latte, per esempio, funziona meglio dell'acqua. Dopo aver consumato un litro di latte, dopo un paio d'ore si è trattenuto un po' di liquido in più rispetto a quello che si è trattenuto dopo aver consumato acqua. E analogamente funziona bene il succo d'arancia, tutte tendenzialmente funzionano bene. L'unica bevanda che funzionava un po' meno bene in questo studio era il caffè, però un litro di caffè americano, lo studio è stato fatto negli Stati Uniti, ovviamente ha una notevole quantità di caffeina e tutto questo può avere un effetto di tipo diuretico che non è particolarmente favorevole. Quindi complessivamente variamo tenendo conto appunto di questi limiti che accennavo. Allora, abbiamo anticipato in linea con noi, abbiamo anche il professor Michelangelo Giampietro che mettiamo subito al lavoro con i nostri ascoltatori. Professore, appena abbiamo parlato abbiamo detto sport, allora gli ultimi minuti li dedichiamo proprio a Paolo da Verona. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Abbiamo un esperto tutto per lei. Allora, fantastico. Lei mi segnalano è uno sportivo amatoriale. Sì, confermo. Il tema sarebbe idratazione e crani. Io faccio ciclismo, gare di endurance, quindi molto lunghe, da 7-8 ore, e ho sempre utilizzato nelle borracce delle soluzioni isotoniche, le classiche che si trovano in giro, insomma, più o meno similari. Sì. Chiaramente però il problema dei crampi ogni tanto si verifica. Per evitare questo qualcuno mi ha suggerito, e ho provato, di utilizzare solamente acqua. Il motivo, la spiegazione che mi hanno più o meno addotto, è che la soluzione concentrata all'interno dell'intestino tende a richiamare acqua dalla periferia dei tessuti. Utilizzare solamente acqua invece al contrario tende a idratare. L'altra cosa che mi hanno detto è quella di separare sempre l'idratazione dall'alimentazione, quindi non avendo la borraccia cose tipo maltodestrine o altri dolcificanti che danno energia, e sembrerebbe funzionare. A dire la verità, io l'ho provato. E funziona. Mi sembrerebbe di sì. E volevo capire se per è un Paolo caso, da Verona funziona. Allora, professor Giampietro, noi sicuramente torneremo su questo tema, ma intanto, prendendo spunto da Paolo, 4 regole per gli sportivi che sono all'ascolto di Radio 24, si allenano con costanza, fa caldo, vogliono reintegrare i liquidi, sono bombardati dai messaggi, quale si reintegra anche con bevande, solo acqua o bevande con sali. Professore, le lascio la parola. Bere sempre, prima, durante e dopo l'attività fisica, regola fondamentale. L'acqua va bene anche senza aggiunta di altro, quando però l'attività fisica non superi 45 minuti, un'ora al massimo. Dopo questo tempo, soprattutto nelle condizioni di clima caldo e di umidità elevata e quando l'intensità del lavoro muscolare è piuttosto importante, è bene aggiungere all'acqua una minima quantità di carboidrati, di zuccheri, dell'ordine di 25-30 grammi per litro di bevanda e un pizzico, ma proprio un pizzichino di sale da cucina, un grammo, tanto che possa contenere circa 450-500 scarsi milligrammi di sodio. Questo perché? Perché l'organismo durante il lavoro muscolare deve anche rifornirsi di energia, altrimenti i crampi possono insorgere anche per questo motivo, e poi perché l'associazione dello zucchero, del glucosio e del sale, il sodio, favorisce il passaggio dell'acqua dall'intestino alle cellule e quindi poi al sangue. Questo è un concetto importante e fondamentale, anche perché la presenza di un pochino di sale ci fa sentire maggiormente la sete e quindi ci induce a consumare bevande in quantità maggiori e a evitare la disidratazione. Oltretutto sarebbe utile anche consigliare di trattenere per un attimo il sorso d'acqua in bocca, in modo tale che i sensori che noi abbiamo all'interno della bocca possano mandare al cervello un segnale positivo e quindi farci sentire anche meno la fatica. Quindi adesso mi ha dato la ricetta, dovrò preparare a Deborah la borraccetta quando va in palestra. Perché, sì, perché qualche regolina perché, non la seguo proprio alla perché lettera. Perché tu ti alleni più di 45 minuti. Sì, e bevo poco. Professore, invece, reidratarsi e reintegrare i liquidi dopo l'allenamento. Come fa? Ci sono persone che sudano molto quando ci alleniamo, sudiamo. Noi vorremmo che quello fosse grasso che va via. In realtà è acqua. Vorremmo in che senso? Ecco, il plurale senso, non usiamolo. Vorremmo ecco. tutti noi. Professore, dopo l'allenamento c'è una formula, un'indicazione che gli sportivi devono conoscere per assumere il giusto quantitativo di liquidi. È semplice, pesarsi prima e dopo l'allenamento, prima e dopo la gara, controllare la variazione di peso, bere una quantità di liquidi nelle ore successive all'allenamento e alla gara, una quantità di liquidi pari a 125-150% del peso perso, quindi diciamo un 25%, un 50% in più rispetto alla quantità del peso perduto. Vero che mi fa un esempio sì, per semplice, me che sono un po' corta, io con i numeri se perdo un chilo devo reintrodurre diciamo una quantità pari a un litro e mezzo di acqua, se perdo mezzo chilo stiamo parlando di 750 millilitri di acqua. Okay. Da sorseggiare lentamente, che è importante perché il sorseggiare favorisce la reidratazione, mentre invece bere tutta l'acqua in un'unica diciamo soluzione con un unico grande sorso non è così efficace come invece sorseggiare lentamente. La ricetta meglio farla per esempio con un succo di frutta, 250 millilitri di un succo di frutta, quello che è più gradito, con 750 millilitri di acqua, quindi raggiungiamo un totale di un litro e aggiungiamo quel pizzico, quel grammo di sale fino. Magnifico. Allora, ma per chi va in piscina non si suda? Ci scrive un ascoltatore via WhatsApp. Professor Giampietro, si suda. Si suda lo stesso, bisogna evitare di correre sudare il rischio di fare... pensare che in acqua non si abbia bisogno di reidratarsi, così come non bisogna pensare che se facciamo attività sportiva in un ambiente freddo, il nostro organismo non abbia bisogno di reidratarsi. Quando ci muoviamo aumenta la temperatura all'interno del nostro corpo, il corpo reagisce per eliminare questo eccesso di calore sudando, e se il sudore evapora la pelle si raffredda, il corpo si raffredda, quindi comunque perdiamo acqua e quindi comunque dobbiamo reintrodurla. Torneremo sicuramente su questo tema. Ringrazio il professor Michelangelo Giampietro e il dottor Andrea Poli per essere stati con noi. Grazie ad entrambi e buona giornata. Buona giornata a voi. Grazie. Vi ricordo un approfondimento sulle pagine di Cuore Denari che riguarda il ghiaccio, perché c'è un bel progetto che si chiama Ghiaccio Sicuro, che ha l'obiettivo proprio di far rispettare con maggiore rigore le norme igieniche che regolano tutti i passaggi produttivi del ghiaccio, questa del resto è la sua stagione. Quindi indicazioni con un'intervista a Luca Settani, professore associato di microbiologia agraria presso l'Università di Palermo, e anche il decalogo per preparare a casa nostra un ghiaccio sicuro. Ma dai, sai che è anche la stagione, grattachecca, granite, poi sì. Tutti, no? Se siamo quindi tutti anche quello deve essere buono e fatto bene. Deve essere fatto bene. Allora, non si suda particolarmente stando seduti sui banchi di scuola, anche si se fatica. Qualcuno con la volatilità che abbiamo visto sui mercati ha sudato un po' freddo recentemente. Senti qua che collegamenti che sto facendo, direi che è bene far partire la nostra sigla. Va, andiamo. Investire informati. E ben ritrovata la nostra ospite di questo giovedì, Monica Defend, responsabile della ricerca globale di Pioneer Investment. Buongiorno, ho tradotto un po' dall'inglese la sua carica che è molto articolata, però lo facciamo sempre un po' a beneficio dei nostri ascoltatori. Ben ritrovata, buongiorno. Buongiorno. Va benissimo, grazie, buongiorno a tutti. Allora, il periodo continua ad essere volatile, visto che abbiamo parlato di acqua fino a questo momento, le acque però sembrano essere un po' più calme rispetto alla fase immediatamente precedente e immediatamente successiva referendum sulla Brexit, quando l'esito del tutto inaspettato del voto inglese ha mandato in tilt gli investitori di mezzo mondo. Insomma, lo ricordiamo, non se l'aspettava nessuno come è andata a finire. Ora c'è un nuovo primo ministro, Theresa May, che traghetterà l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea con tutte le conseguenze che peraltro abbiamo anche analizzato, potenziali, con tante puntate, no Nicoletta, di Cuore certo. E Denari sugli effetti della Brexit in termini di dicevo libertà di circolazione di beni, servizi, persone, con tutta la riorganizzazione appunto europea che il referendum britannico comporterà, l'esito di questo referendum. Sappiamo intanto che la borsa inglese ha beneficiato molto della confusione finanziaria che è maturata nelle ultime settimane, c'è stato un ribasso profondissimo della sterlina che ha fatto correre tutte le società quotate a Londra, soprattutto quelle che naturalmente esportano molto e di conseguenza hanno beneficiato della valuta diventata improvvisamente più competitiva. Sono stati un po' più in affanno gli altri mercati europei che invece hanno subito un contraccolpo durissimo, adesso sono tutti in recupero, Milano viaggia in positivo, anche stamattina più un 20% hanno ripreso a correre i titoli bancari, stamattina è positiva anche largamente tutta l'altra parte appunto delle borse europee, è andata bene stamattina di nuovo la seduta in Asia, ma dottoressa Defend, prevedete, le faccio subito leggere la sua sfera di cristallo, settimane estive da monitorare con attenzione, c'è qualche altro pericolo, almeno qualche altro fattore che potrebbe provocare di nuovo volatilità o possiamo andare in vacanza tranquilli? Purtroppo sui mercati finanziari accade molto molto spesso che i mesi estivi siano piuttosto turbolenti e generalmente questo è dovuto a scarsità di flussi e i mercati reagiscono quando non ci sono poi eventi straordinari in maniera volatile. Quindi io rimango con le antenne tese e gli occhi aperti ed estremamente cauta. Ci sono poi in agenda una serie di incontri importanti a partire dalle banche centrali, oggi la Banca Centrale Inglese, giovedì prossimo la Banca Centrale Europea. I dati che verranno rilasciati ad agosto, che dovrebbero, speriamo, darci qualche indicazione in più su qual è stato l'effetto di Brexit, il primo effetto di Brexit che è passato subito attraverso gli indicatori di confidenza. Vediamo poi se si traduce in inflazione piuttosto che declino di produzione industriale e crescita nel Regno Unito e nel resto dell'Europa. Per ritrovarci poi al 16 di settembre con la riunione dell'Eurogruppo e vedere se e quali misure verranno intraprese per affrontare, certo, lato Eurozona, l'evento che è accaduto, esatto, in Regno Unito. Tra l'altro la sensazione è che si aprirà un altro bel braccio di ferro, perché mi pare che già dalle prime indiscrezioni, dalle prime dichiarazioni, la signora May abbia detto questo famoso articolo 50 del Trattato di Lisbona lo faremo scattare a dicembre, quindi si è data ulteriore tempo, quindi con comodo, poi bisognerà vedere appunto se le autorità europee accetteranno anche, no, questo modo di fare. Ma lì vediamo, perché tra l'altro il primo ministro si sta circondando di alcuni personaggi, il segretario è stato nominato Davis segretario di Stato per l'uscita da Eurozona e le sue dichiarazioni sono piuttosto drastiche, quindi io spero sinceramente che anche lì verranno rivisti i toni con una maggiore cautela, perché venirsene fuori con voi avete bisogno di noi, poi noi abbiamo bisogno di voi, insomma non mi sembra, certo, il modo giusto per partire con una contrattazione su temi commerciali così importanti come quelli che legano Eurozona e il Regno, esatto, Unito. Esatto, perché i mercati hanno bisogno di fatti certi, poi che escano o non escano, come verrà fatta questa uscita lo vedremo, ma l'importante è che gli step dell'uscita siano chiari, molto chiari fin da questo momento. Tra l'altro, sempre a proposito delle conseguenze di Brexit, ha fatto un po' paura. Se ne è parlato molto per 2 o 3 giorni, poi anche questo tema che al momento dalle pagine di cronaca finanziaria sembra essere scomparso, quello che è successo al mercato immobiliare inglese. A parte la strada del ribasso che hanno iniziato a prendere subito i prezzi degli immobili, soprattutto quelli di lusso, ci sono state altre vicende. 3 colossi britannici finanziari, Standard Life, Aviva ed M&G Investment, hanno sospeso la possibilità di vendere le quote dei loro fondi immobiliari. Queste compagnie temono appunto che chi ha investito nel mattone britannico possa liquidare le proprie posizioni e quindi prendere il largo, così hanno bloccato questa strada. In Italia l'investimento in fondi immobiliari non è particolarmente praticato dai piccoli risparmiatori, non so adesso quanti inglesi invece lo facciano, però è un mercato molto importante per i grandi investitori, quindi questo fatto che importanza e rilevanza ha avuto, lo Teresa defende? A livello di contagio, possibile effetto domino, al momento molto modesto. Quello che mi preoccupa è che un calo del prezzo dell'immobiliare possa di fatto compromettere la solidità di alcune banche, perché ci sono dei mutui che sono stati accesi su, certo, su queste case, quindi le conseguenze le abbiamo viste nel 2007, è una cosa che noi stiamo monitorando. Al di là della felicità delle persone che ho incontrato a Londra la settimana scorsa, che stanno anche pensando di comprare casa. Certo. Sì, dei colleghi stanno pensando di comprare casa, allora, a questi prezzi. Anche loro naturalmente per comprare casa si indebitano, faranno dei mutui, saranno ben contenti del fatto che probabilmente oggi la Bank of England, lo sapremo intorno alle 13, taglierà i tassi di interesse nel Regno Unito. Ma questo è quello che sta apprezzando il mercato. Noi abbiamo una visione un po' più cauta perché ci sembra un po' troppo presto. Cioè è vero che il governatore della banca centrale inglese è sempre molto attivo, ma forse aspettare agosto, quando ci sono i dati sull'inflazione, con tutta la svalutazione che ha avuto la sterlina finora, forse sarebbe più cauto. Mm. Quindi io non sono così gli manderemo questo suggerimento da, certo, cuore e denari, insomma, queste 3 donne con grande buonsenso le stanno suggerendo di comportarsi in maniera cauta, insomma ci dia anche un po' retta. Anche perché siccome il problema che si teme in Inghilterra è quello di un crollo della domanda di credito, non necessariamente un taglio dei tassi può risolvere, può essere la soluzione di questo problema. Tant'è che sul tavolo penso ci sia anche la possibilità di riaprire il loro programma di accomodazione, monetaria, quantitative easing, che mi viene più facile, scusatemi. Lo so che voi parlate sempre in inglese nelle vostre stanze segrete. Piuttosto che l'estensione, così come avevano fatto in passato, del loro programma di finanziamento del credito, che andrebbe proprio a rispondere a quella necessità di cui parlavamo prima, per cercare di aiutare le famiglie e le imprese. Quindi per sintetizzare, per lei non sarebbe meglio che lo facesse oggi, fra un mese, ma il mercato lo prezza. Il prezzo, sì, mercato sta apprezzando oggi. Allora, ci dobbiamo fermare. Ma il mercato è irrazionale, si sa che il mercato è molto irrazionale. Esatto, però non vedo l'ora che siano le 13 per sapere veramente che cosa succede. Detto questo, allora noi dobbiamo andare in pausa. Abbiamo un altro appuntamento. Esatto, con i mercati, peraltro la Brexit ha fatto anche il suo ingresso nel Beige Book, che è il rapporto sullo stato di salute dell'economia americana che la Banca Centrale Americana pubblica ogni 6 settimane, è stato diffuso anche ieri sera, è il frutto dell'analisi che viene condotta nei 12 distretti in cui opera la Banca Centrale Americana. Il documento viene utilizzato nelle riunioni della Federal Reserve, quello che è stato diffuso ieri sera verrà utilizzato appunto nella riunione della Banca Centrale Americana che è in calendario il 26 e il 27 luglio prossimi. Che cosa è stato detto nel rapporto di ieri sera? Il voto sulla Brexit porta un po' di incertezza, ma guarda un po', ce ne eravamo accorte. Borsa, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Beh, potete immaginare, in uno studio radiofonico con tre donne qua si parla di tutto, non solo di mercati finanziari, ma adesso rimettiamoci in ordine e invece continuiamo ad affrontare appunto questi argomenti. Non ho ricordato ai nostri amici che possono intervenire in diretta all'800 24 0024. Adesso commenteremo altre notizie, poi allungate le orecchie perché c'è il domandone. C'è anche il domandone, e se vai. Volete portare sotto l'ombrellone qualche bel libro di cuore o di denari. Oltre alla nostra foto, naturalmente. Certamente. Che potete scaricare dal sito. Esatto, la mettete in copertina. Allora, prima di andare invece a vedere che cosa succede, abbiamo affrontato ancora una volta un po' il post-Brexit, adesso vorrei affrontare anche il tema della corsa che sta facendo il mercato americano, ma andrei per un attimo con Monica Defender di Pioneer Investment questa mattina sull'altro tema che invece sta continuando un po' ad indispettire i piccoli risparmiatori italiani, cioè l'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato. Ieri l'asta che era programmata dal Tesoro appunto ha fatto il tutto esaurito, sono stati collocati 7 miliardi e mezzo di euro di BTP a 3, 7, 15 e 20 anni con il tasso del titolo triennale che è tornato in negativo, meno 0,04%. Vicino ai minimi che aveva già raggiunta lo 0,05%, meno 0,05%. Il rendimento del BTP a 7 anni, sono stati collocati 2 miliardi e mezzo, è sceso allo 0,63% dal precedente 0,83%. Per il BTP a 5 anni sono stati registrati rendimenti dell'1,57%, per il BTP a 20 anni invece è stato spuntato un rendimento dell'1,88%. Due giorni fa avevamo avuto tassi in ulteriore calo per il bot annuale, un altro record negativo, meno 0,17%. Dottoressa Defender, le lascio commentare questa situazione che ancora ci chiediamo quanto a lungo potrà essere sostenibile. Ma ne avevamo già parlato in occasioni precedenti che purtroppo, dato l'attuale livello di crescita e di inflazione e quelle che sono le attese dell'inflazione e della crescita a venire, purtroppo non ci possiamo aspettare dei rendimenti elevati né sulle asset class, le classi di attività rischiose, l'azionario, e quindi tantomeno sulle attività del reddito fisso. Che sulle quali di solito le classi di attività rischiose pagano un premio. Su quella che è stata l'asta, di fatto si conferma una tendenza, il tutto esaurito da sempre. E sulla quantità non c'è molto da commentare, c'è da porre attenzione a questi rendimenti negativi che nonostante tutto riescono ad attrarre una domanda che è molto superiore rispetto a quella che è l'offerta. Ed è un po' quello che contraddistingue il risparmiatore italiano, no? Che nonostante tutto rimane una persona interessata al reddito fisso. Quello che noi da case di investimento e persone che si occupano di gestire il patrimonio dei nostri risparmiatori, andare a cercare delle soluzioni di investimento che possano sostituire il reddito fisso e la comoda cedola a cui a noi tanto, tanto cara. E questa di fatto è la direzione in cui ci stiamo orientando. Allora, la vera notizia però di ieri, sempre per quello che riguarda il mercato obbligazionario, che ha scompaginato un po', anche se in realtà ce l'aspettavamo che prima o poi succedesse, perché già sul mercato secondario questa tendenza era conclamata da qualche settimana, ieri invece è successo che sul mercato primario, e quindi in asta, la Germania è diventata la prima nazione dell'Eurozona a vendere titoli a 10 anni con rendimenti sotto lo zero. Per la precisione, al meno 0,05%. Il fatto che sia successo in asta ha un significato particolare? Visto che già appunto sul secondario erano in negativo di fatto da un po'. È la conferma e la macca che questa è una tendenza che sarà destinata a perdurare nel tempo. Certo. Vito Lops definisce queste vicende di questi ultimi giorni un territorio inesplorato della Brexit e di Wall Street ai massimi storici. Viviamo nel territorio inesplorato della Brexit e di Wall Street ai massimi storici. E di banche centrali che sono estremamente accomodanti. Di fatto sono cose che non si sono mai viste, ma come diceva all'inizio, io mi occupo di ricerca e stavamo guardando con i nostri analisti ai dati del passato, ma lei lo sa che non è possibile trovare dal dopoguerra un contesto di crescita e inflazione simile a quello attuale. È proprio una cosa che non è mai accaduta, perché di fronte a crescita così bassa, così fragile, di solito l'inflazione era comunque un pochino più elevata. Il fatto che la storia degli ultimi 60 anni non ci dia un aiuto, di fatto rende queste acque ancora più pericolose da navigare. A completare il nostro ragionamento sui titoli obbligazionari in negativo, un altro record di recente è arrivato dal Giappone. Qualche giorno fa abbiamo avuto appunto questo tasso negativo per i titoli ventennali. I decennali sono in negativo ormai da settimane, sono sotto dello 0,27%, ma senta, per questa ragione secondo lei che l'imperatore Akito ha deciso di abdicare? No, non credo, nonostante in Giappone... Comunque una situazione economica un po' complessa anche per il Giappone. Ecco. Molto, molto complessa, e che è complessa da parecchio tempo. Ci sono state le elezioni che sembrano dare un pochino più di favore e legittimità ad Abe, il primo ministro. Premier. Questo è un aspetto positivo, ma non cambia di fatto le regole dei giochi in Giappone, che rimane comunque un'area di interesse. Perché? Perché il Giappone, al di là di fare parte del G3, è il paese sviluppato all'interno dell'area asiatica, e quindi sia per le relazioni commerciali con i paesi limitrofi, sia perché è l'unico paese non troppo distante dalla Cina, di sicuro continua a essere molto, molto importante di interesse. Allora, intanto sai che ti dico che sono pronta con il domandone. Dai, vediamo, andiamo. Se è pronto Filippo con la sigla. Mica lo colgo. Non lo posso cogliere in castagna, non c'è niente da fare. C'è un paese che ha sperimentato il rendimento negativo sui titoli governativi a 50 anni. Vediamo se sapete qual è. È facilissimo perché ne hanno parlato tutti i giornali. 800240024 per guadagnarvi il libro di Cuore Denari da portare sotto l'ombrellone. Allora, andiamo invece adesso, sì, ancora un paio di minuti ce la faccio prima della prossima pausa, al tema americano, che è pure molto, molto interessante e molto affascinante. Oggi cominciano le grandi banche americane a pubblicare i conti del secondo trimestre, ad inaugurare questa stagione trimestrale sarà JP Morgan Chase, poi seguiranno Wells Fargo, Citigroup e poi via via andranno avanti le altre big. Prima però di fare un po' un commento su quelli che potranno essere i conti del settore finanziario, in realtà Nicoletta, a proposito della questione americana, c'era una domanda interessante di un ascoltatore, sì, che tu leggi, Massimo, su WhatsApp. Massimo da Firenze, che dice, vedi che sono come Filippo, sempre pronta. Ci si può proteggere dalla volatilità comprando dollari? Allora, bene rifugio. Il dollaro è tradizionalmente considerato tale. Sì, infatti è quello che abbiamo fatto noi prima di Brexit. Abbiamo incrementato la nostra posizione in dollaro americano e subito a ridosso l'abbiamo aumentato ancora. Nonostante noi abbiamo delle previsioni sul dollaro a 1,08, quindi non largamente distanti dai livelli attuali, però... Funziona sempre, funziona come bene rifugio se le cose vanno male, e funziona se le cose vanno bene, perché se la Federal Reserve, la banca centrale americana, dovesse cominciare a rialzare i tassi, allora il dollaro si rafforza. Al momento i titoli di Stato americani il territorio negativo non l'hanno sperimentato. appunto, esatto. Esatto, se succedesse quella cosa là, sempre a proposito di cigni neri e situazioni strane che potrebbero essere dietro l'angolo. Ma adesso, quando la Banca Centrale Americana deciderà e sarà nella condizione di poter normalizzare, strutturare la sua uscita, vista la quantità di titoli in circolazione, quello potrebbe essere un problema. Quello è uno. Noi abbiamo il cosiddetto muro dei rischi, che dividiamo per impatto sulle strategie in essere e per orizzonte temporale. Quindi l'uscita della Fed dalla sua politica monetaria non convenzionale e accomodante è un rischio di medio periodo, perché noi non pensiamo che lo faccia a breve. 2017 potrebbe esserci un qualche rialzo, ma insomma sarà davvero un processo molto lento, gradualissimo. Però è uno dei rischi che stiamo monitorando. Allora, adesso ci fermiamo, c'è il traffico, torniamo tra pochissimo. Cuore e denari. Allora, come sapete, stiamo oggi è giovedì, c'è Investire Informati, abbiamo analizzato tutto il tema delle emissioni obbligazionarie a rendimento negativo, abbiamo fatto un po' il giro nel mondo tra l'economia dell'Eurozona, l'andamento dei titoli italiani, dei BTP, dei bot appunto italiani, abbiamo affrontato anche le questioni giapponesi, ma abbiamo lasciato fuori un paese dove invece è stato sperimentato un rendimento negativo assolutamente straordinario e non in senso positivo, appunto. Un titolo a 50 anni che è finito in territorio negativo. Allora vi chiediamo se sapete dove è successo, e così vi guadagnerete l'opportunità di portarvi a casa un libro di Cuore e Denari, solo se risponderete però all'800 24 00 24. Allora, trimestrali americane, la stagione è partita come sempre con Alcoa. Oggi riprendono i titoli del settore finanziario, le grandi banche americane con JP Morgan. Sono attese delle come dire indicazioni in chiaro scuro, vedremo cosa succederà, ma intanto è che gli analisti attendono un calo dei profitti per il comparto bancario e finanziario. Chiaramente i loro conti dipendono un po' anche dall'atteggiamento della banca centrale americana, però sempre in tutta questa incertezza che viene descritta prima che le notizie vengano comunicate, Wall Street, dottoressa Defend, continua a correre, direi anche all'impazzata, perché il Dow Jones è ai massimi dal maggio dello scorso anno, ma anche gli altri indici continuano a testare record su record. Ci spiega perché c'è questo clima a dir poco euforico attorno al mercato azionario americano? La possiamo considerare pure la borsa americana un bene rifugio? Ma allora, io i mercati azionari faccio un po' fatica a considerarli come bene rifugio. È un fatto che lo Standard & Poor's 500 sia a più 5 da inizio anno. Perché? Perché comunque l'economia americana, pur se più debole rispetto alla sua storia, rispetto agli altri paesi, sta andando bene. Le aziende, e in particolare oggi ci sarà si apre la stagione di riportistica, quindi dei dati molto importanti, perché danno un segnale sullo stato di salute dell'economia, un segnale che è più frequente rispetto a quello del PIL e che riesce a dare a fare luce in maniera più microscopica rispetto a quanto non faccia il PIL sullo stato di salute dell'economia americana. Quindi fin tanto che ci sono questi numeri, ci sta che l'economia, che i corsi azionari siano positivi. Quello che bisogna guardare è quanto il mercato ha già apprezzato di questo stato di salute, e al momento è stato già apprezzato quasi tutto se non tutto. Ciò detto, il mercato americano rimane un punto di interesse, proprio perché rispetto alle altre economie, quelle sviluppate, è un'economia più sana. Il petrolio non rappresenta al momento un fattore di disturbo, non lo rappresenta più, o comunque lo continuate a monitorare? Lo continuiamo a monitorare, perché niente è per sempre, quindi adesso ci stiamo preoccupando di altre cose. È tornato è stato mercoledì, l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha detto che c'è stata una trasformazione straordinaria in quello che è il mercato del petrolio, ma comunque davanti a noi la strada non è in discesa, perché bisogna sempre capire quali sono le dinamiche di domanda e e di offerta. La trasformazione è stata straordinaria perché da quell'eccesso di offerta che avevamo a inizio anno c'è stata una progressiva correzione, siamo praticamente arrivati a una sostanziale, a un sostanziale bilancio tra domanda e offerta, e questo fa sì che il prezzo stia intorno ai livelli attuali. Tant'è che noi abbiamo un modello di previsione proprio su domanda e offerta di petrolio, quindi che non tiene conto di quelle che sono le speculazioni di breve, e a 2017 abbiamo un obiettivo a $55. Quindi vabbè. Questo è quello che una domanda e un'offerta in equilibrio dovrebbero determinare come prezzo del petrolio. Intanto gli ascoltatori continuano ad inviare domande sul tema rendimenti dei titoli di Stato a zero e sotto zero, e un ascoltatore esattamente in linea con quelle che ci arrivano. Arrivano appunto tante volte quando esploriamo questo argomento, appunto chiede quale convenienza hanno i risparmiatori a investire in titoli di Stato in questa situazione. Non è più semplice lasciare i soldi sul conto corrente. Io devo dire che ci sono molti risparmiatori che ancora quando vanno magari a rinnovare i loro titoli di Stato in banca non hanno la piena percezione di questa situazione e continuano a pensare di fare un investimento conservativo, prudente, appunto, e non hanno ben capito che in realtà ci stanno cominciando ad andare in perdita. Lasciarli sul conto corrente teoricamente sì, è un filino più remunerativo, al limite sul conto di deposito. Detto questo, i grossi numeri non li fanno i piccoli risparmiatori, dottoressa Defende, ma i grandi investitori istituzionali sono le banche che fanno questi numeri e che devono, per questioni anche di tesoreria, appunto, tenere anche uno stock di titoli di Stato nei loro portafogli. È corretto. D'altra parte, con questi rendimenti così bassi, se non negativi, noi abbiamo un disperato bisogno di portare rendimento nei portafogli che gestiamo, e quindi dobbiamo cercare, mantenendo l'esposizione a rischio controllata, di contribuire in maniera positiva al rendimento. E questo significa dover cambiare mentalità, dover cambiare le proprie preferenze. Magari per un investitore specializzato è più facile di quanto non lo sia per la persona a casa. In questo caso io quello che mi sento di consigliare è evita il fai da te, perché soprattutto con una volatilità così elevata e in una situazione economica e politica che si sta modificando in maniera così veloce e incerta, io mi affiderei comunque ai consigli di persone che fanno questo di mestiere. Allora, Sergio dalla provincia di Milano, buongiorno. In quale nazione è stato emesso un titolo di Stato a 50 anni che ha un rendimento negativo? Credo la Germania. No, Sergio, ci dispiace, non è stata la Germania. Ieri la Germania è successo che Nasta ha collocato il Bund a rendimento negativo, è già stata una notizia clamorosa. Però guardi, Nicoletta mi guarda con affetto per lei, certo. Le mandiamo il libro lo stesso. Marco da Genova, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. È la Svizzera. Benissimo. Allora, indebitarsi per 50 anni, non indebitarsi, investire per 50 anni per non riottenere neanche il capitale investito, dottoressa Defende. Chi è quel pazzo che fa una cosa del genere? Una persona irrazionale, ecco. non ha nessuna giustificazione, quindi al di là di non essere in grado di adattare le proprie preferenze di investimento, forse è necessario che ci si faccia una pensata. Allora, mi ero lasciata come domanda e darsi una risposta, esatto, no? Alla Marzullo. Allora, non abbiamo tempo, l'ultima domanda che mi ero lasciata, volevo sottoporre alla dottoressa Defende una lettera che un consulente finanziario che conosco nei giorni scorsi ha inviato ai suoi clienti. La sintetizzo velocemente. Spiazzatissimo da Brexit, fa ai suoi clienti l'elenco di tutti gli appuntamenti elettorali da qui ai prossimi mesi, ma anche al prossimo anno, e siccome lui teme che la politica manderà di nuovo in tilt particolarmente i mercati finanziari, dice: perché non uscite del tutto, per poi mantenete liquido per un certo periodo il vostro portafoglio e poi ne riparliamo fra un anno? Guardi, visto il rimbalzo che stanno avendo le borse, potrebbe essere un'opportunità da cogliere, anzi è un'opportunità che noi di fatto abbiamo colto. Andare a vendere quando i mercati scendono e quindi consolidare le perdite non fa piacere a nessuno, ma adesso che i mercati azionari stanno dando hanno questo rialzo che non credo sia persistente proprio per i motivi di rischio geopolitico e di calendario politico, perché no? Perché no? Quindi audace e coraggioso, ma suggerimenti che hanno un senso. Grazie a Monica Defend, buona giornata, buona estate. Sono curiosa di vedere la Bank of England cosa farà tra poco. Noi torniamo domani, buona giornata. Grazie.